Là li devi lavare questi, non le lasciare lì. Grazie. Hai capito? Lo so che sono pulite. Non ti è ancora entrata sta cosa, eh? Allora, sta attento. Queste sono pulite, ma devono essere calde. E poi le mettiamo lì sopra.